sostanzialmente ogni anno la regione, attraverso la legge comunitaria, recepisce quelle che sono le normative di derivazione europea e quindi allinea la legislazione regionale a quella di derivazione europea. All'interno di questa legge è stato inserito appositamente si è colta l'occasione per inserire un articolo che, facendo riferimento a un decreto legislativo del 96, in attuazione appunto a un decreto dell'Unione Europea, una direttiva dell'Unione Europea, si è colta questa occasione sostanzialmente per dire che cosa? Per dire che quando ci saranno nuove concessioni per l'estrazione di idrocarburi nella nostra regione, i comuni interessati potranno ricevere, questi comuni saranno destinati maggiori risorse di quelle attualmente previste, e in particolar modo, in sostanza, le aziende che fanno estrazione di idrocarburi versano delle royalties allo Stato, alla regione e ai comuni, e la regione attraverso questo provvedimento ha deciso di destinare una quota delle royalties che fino ad oggi venivano destinate alla regione, di appunto devolverle ai comuni. Siccome parliamo di comunque importi che per l'anno scorso ad esempio sono di alcuni milioni di euro, è evidente che trasferire queste risorse ai comuni, cioè una quota maggiore di queste risorse ai comuni, potrebbe dal nostro punto di vista voler dire in sostanza: guardate comuni, che quando andate nella conferenza dei servizi per dare la valutazione e il via libera a queste estrazioni, sappiate che nel caso in cui queste estrazioni poi dovessero essere approvate, voi avrete un incentivo economico maggiore. Ora, a questo punto, in un momento in cui, come sappiamo, le finanze degli enti locali sono in difficoltà, la situazione è delicata e tutte le cose che sappiamo, questo passaggio secondo noi rischia di compromettere un pochino quella che è l'aspetto di tutela ambientale del territorio, e visto che proprio in questi giorni tra l'altro si stanno discutendo di nuove estrazioni a partire da Santozza nel Modenese, Carpi eccetera, ecco che allora uno più uno fa due, quindi la preoccupazione nostra era quella di levare il campo, sgombrare il campo da dubbi e con questo emendamento togliere l'articolo. La nostra proposta, che è stata votata dai consiglieri di MDP e del Movimento 5 Stelle, ma non da tutto il resto dell'Aula, è stata respinta e quindi l'articolo è passato. Sì, in particolare è stata respinta dai voti di PD e Lega, se non sbaglio. Sì, PD e Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia si sono astenuti, e quindi diciamo l'asse PD e Lega ha fatto sì che questo emendamento fosse respinto. Per cui la preoccupazione che abbiamo denunciato in Aula, e come stiamo facendo sui territori, appunto, che concretamente, anziché cercare strade alternative, puntare sulle energie rinnovabili e, come si dice sempre anche nel piano energetico, puntare, no, a una riconversione energetica della nostra regione, si continui e si persista su quella che è una strada legata alle energie fossili. Per noi questo non è positivo, e quindi abbiamo cercato di così proporre una strada alternativa, che però non è passata. Di questi giorni la notizia che è arrivata dal Ministero, la sospensione appunto delle procedure amministrative legate alle nuove ricerche di idrocarburi nel Modenese. Cogliamo questa notizia positivamente, però è ovvio che va rimesso in discussione il sistema in quanto tale.